24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, eccoci qua, ben ritrovati a 24 mattino, e diamo spazio all'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Ciao Alessandro, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori, buona allora, giornata. Ripartono lunedì. La settimana, oggi, è lunedì. Oggi più terribile del solito, non so per quale motivo. Lunedì. Allora, eccoci. Oggi un periodo di turismo. Sì. E bisogna fare attenzione a che cosa, Deborah? Allora, prima però vorrei partire con una domanda, perché a giudicare dal tuo sguardo... Noi mangiamo spesso nella mensa della nostra azienda, ma non siamo mai andati a mangiare fuori insieme, per cui non ho potuto testare quanto lasci di mancia quando vai via dal ristorante. Vabbè, insomma, non è una domanda, quindi non ti rispondo. Sotto i 100 euro tu neanche ti sprechi, certo, naturalmente. È ovvio. Come i due mitici turisti giapponesi che si sono trovati a spendere qualcosa come 695 euro in un ristorante del centro di Roma, è la notizia che sicuramente è quella di cui si è parlato di più negli ultimi giorni. Quasi 700 euro veramente inaspettati, tanto che i due signori giapponesi non è che si sono poi lasciati gabbare tanto facilmente, hanno finito per denunciare il titolare del ristorante perché i prezzi del conto non corrispondevano assolutamente a quanto era indicato sul menù, ma questo poi non se ne erano neanche accorti, per la verità. E addirittura si è scoperto dopo che le condizioni sanitarie del ristorante erano pessime. Ai signori giapponesi è andata male con i prezzi, ma può capitare anche che possa andar male con gli ingredienti dei piatti che ordiniamo. Gli stessi menù possono addirittura essere, il termine non è molto bello, ma noi stamattina lo utilizziamo, taroccati. È un rischio diffuso, soprattutto in periodo di vacanze, sul quale Coldiretti e Comando Carabinieri Sezione Politiche Agricole e Alimentari stanno monitorando attentamente e hanno anche organizzato nei giorni scorsi un incontro. Allora, questa mattina ne parliamo con i diretti interessati. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi a Soldi e Dintorni, a Rolando Manfredini, responsabile qualità Coldiretti. Manfredini, ben trovato a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno anche al colonnello Vincenzo Alonzi, comandante del Comando Carabinieri Politiche, Agricole ed Alimentari. Colonnello Alonzi, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, l'iniziativa di cui vi siete fatti congiuntamente promotori si è chiamata martedì 30 giugno Le vacanze nel piatto, stop ai menù acchiappa turisti. Allora Manfredini, io direi di cominciare proprio con lei, perché naturalmente come italiani quando ci spostiamo sul territorio nazionale, oltre naturalmente a visitare le bellezze artistiche, siamo molto attenti anche a quello che mangiamo, e ovviamente la gastronomia, i piatti tipici del nostro paese sono anche quanto di meglio possono attirare i turisti che arrivano dall'estero. Voi avete fatto un monitoraggio molto attento anche su questo. Quali sono i dati? I dati sono che ovviamente negli ultimi anni, questo è un ripercorrere un po' le tradizioni, tre italiani su quattro, circa il 74%, colgono appunto l'occasione durante le feste per mangiare fuori. E questo è un dato molto importante. Addirittura il 64% va proprio alla ricerca di quelle che sono un po' le usanze, le tradizioni alimentari del luogo dove vanno a fare le vacanze. Questo è molto molto interessante, perché permette di collegare veramente un territorio come il nostro, che ha caratteristiche peculiari anche rispetto alla produzione della gastronomia, alla cultura, alla storia, alla tradizione del nostro popolo. Cosa intendete, Manfredini, con menù acchiappa turista? Purtroppo si sta diffondendo, voi l'avete già un po' anche anticipato, una prassi che non è veramente corretta. Menù acchiappa turisti significa che soprattutto nelle località turistiche vengono offerti ai turisti che evidentemente pensano che non conoscono bene la storia e la gastronomia di quel posto, dei piatti che non corrispondono veramente alla nostra tradizione o addirittura per certi aspetti sono taroccati. L'esempio è questo: si parla tante volte nei menù acchiappa turisti di spaghetti alla bolognese, che effettivamente non esistono nella realtà, oppure addirittura piatti che sono veramente, appartengono alla tradizione alimentare del nostro popolo e alla dieta mediterranea, come per esempio la caprese, che viene offerta con un formaggio industriale al posto della tradizionale mozzarella di bufala. Poi ci sono tantissimi altri esempi. Sì, poi magari ne continuiamo anche a fare, in modo tale che possiamo anche solleticare l'attenzione dei nostri ascoltatori che sono pronti questa sera ad andare a cena fuori e magari intorno a questo problema non avevano mai posto l'accento non ci avevano neanche mai pensato, perché poi diciamolo chiaramente, ci muoviamo sempre abbastanza in buona fede, non siamo tutti quanti sempre così pronti a criticare il posto dove andiamo. Colonnello Alonzi, torno da lei, ci ha fatto qualche esempio Manfredini, questo rischio tarocco nel piatto, quindi trova molte vittime, quanto è ampio questo fenomeno nel nostro paese? Perché questo ci dispiace un po', io direi che dobbiamo anche fare come dire, attenzione quando parliamo, è chiaro che la maggior parte dei ristoratori si comporta molto correttamente e a volte spendiamo volentieri anche delle belle cifre per mangiare bene, però dobbiamo stare attenti. Beh, è difficile dire quanto sia ampio questo fenomeno, stiamo cominciando a monitorizzarlo insieme agli amici di Coldiretti, però è difficile fare dei numeri, quantificare. Diamo un messaggio di rassicurazione, come ha detto lei, la stragrande maggioranza dei ristoratori italiani sono onesti e quindi non si corrono particolari rischi. È chiaro che possono esistere delle sacche, dei spunti di irregolarità che noi monitorizziamo e seguiamo. Peraltro per l'estate appunto abbiamo pianificato un'intensificazione dei controlli proprio nelle località turistiche per monitorizzare il fenomeno. Insomma. Come eseguite questi controlli, colonnello? Vi presentate non vestiti da carabinieri ai ristoranti oppure fate un controllo più come dire trasparente, nel senso che vi presentate nei locali e andate un po' a vedere come vengono cucinate le pietanze? Come funziona? Funziona che abbiamo un piano di controlli che viene eseguito, oppure rispondiamo, verifichiamo le segnalazioni che riceviamo sia dai cittadini che dai nostri presidi territoriali, le stazioni carabinieri che sono in tutto il territorio nazionale e che praticamente convogliano verso di noi, che siamo un'unità specializzata dell'arma in questo settore, le eventuali segnalazioni. Sì, il controllo viene eseguito o nel ristorante, controllando soprattutto la rispondenza delle fatturazioni, cioè se il ristorante ha acquistato poi in realtà i prodotti che indica nei menu, insomma, come componenti dei piatti. Questa è la principale attività di riscontro che si può fare. Ecco, un'altra cosa interessante che va ricordata è che molto spesso il rischio frode non riguarda solamente il piatto che consumiamo al ristorante, ma che il nostro paese è interessato anche ad un movimento economico molto interessante in termini di souvenir gastronomici che possiamo acquistare proprio in termini di ricordo. C'è anche questo, se non sbaglio, colonnello Alonzi, no? Da tenere sotto controllo. Ci possiamo portare a casa, per esempio, l'olio d'oliva buono che pensavamo appunto fosse prodotto in Toscana, in luoghi sicuramente più interessati a queste produzioni, e poi scopriamo che non è così. Certo, abbiamo decine di migliaia di agriturismi e di luoghi dove si possono acquistare prodotti tipici locali, regionali, che sono sicuramente di alta qualità. Quindi insomma direi anche qua diamo un messaggio di rassicurazione, perché nella maggior parte i nostri produttori sono onesti e quindi non creano problemi di questo tipo, tranne qualche caso ovviamente. Il cittadino va rassicurato, anche perché in Italia abbiamo una legislazione molto avanzata rispetto ad altri paesi europei e abbiamo anche un sistema di controlli che funziona, per esempio reparti specializzati come è il nostro in altri paesi d'Europa non esistono, e quindi diamo un messaggio di rassicurazione. No, ma questo senz'altro, però stiamo anche un po' attenti, perché poi abbiamo visto appunto il caso dei turisti giapponesi che è stato molto evidente solo perché il conto è stato presentato a queste due persone ed era assolutamente impossibile che potesse essere stata sostenuta una spesa di questo tipo per il tipo di pasto che avevano consumato. Quello che ci presentano nel piatto, a meno che non sia di gusto assolutamente insopportabile, è un po' più difficile da monitorare. Manfredini, 30 secondi anche, li concedo anche a lei per concludere, un'ultima raccomandazione ai nostri consumatori all'ascolto e che amano molto la nostra gastronomia. Beh, evidentemente rispetto a questa cosa qua occorre fare attenzione un po' a quello che si va a cercare. In genere diamo anche la possibilità appunto agli italiani, soprattutto quel 64% che va alla ricerca degli abitudini, di sapere che cosa cerca. E ai turisti, quelli che vengono dall'estero, evidentemente informarsi che cosa significa mangiare una pasta al pesto o un pasto alla carbonara e controllare che effettivamente nel piatto ci siano gli ingredienti storici di questa situazione, altrimenti bisogna veramente diffidare e scappare da queste infatti. Grazie a Rolando Manfredini di Coldiretti e al colonnello Vincenzo Alonzi. Alessandro, eccoci qua. Allora, Salvadanaio, continuiamo a monitorare l'andamento delle tariffe di luce e gas oggi a Salvadanaio. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.33 minuti, uno sguardo alle notizie in primo piano. Si apre la settimana del G8 all'Aquila, stamattina il presidente americano Obama arriva a Mosca per un vertice sul disarmo nucleare col suo omologo russo Medvedev. In Italia invece scoppia una nuova polemica su presunte foto di Berlusconi a Villa Certosa, le ha annunciate il quotidiano Sunday Times, e Palazzo Chigi risponde con una nota dura in cui si accusa la morbosa campagna della stampa estera e si nega che le foto abbiano alcunché di imbarazzante per Berlusconi. In Cina sono almeno 140 le vittime per violenze nella regione dello Xinjiang, dove si fronteggiano la polizia ed esponenti della minoranza etnica uigura, lo afferma l'agenzia ufficiale Nuova Cina. E per lo sport, il MotoGP degli Stati Uniti ha visto la vittoria dello spagnolo Dani Pedrosa, secondo Valentino Rossi, mentre per il tennis a Wimbledon, sesta vittoria dello svizzero Federer, che si è imposto su Roddick dopo un'incredibile maratona finita 16-14 al quinto set. Tutto questo esattamente alle 8.34 minuti. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Lo abbiamo sentito anche in GR24, ma ne sono pieni anche le cronache dei giornali. A 48 ore dall'approvazione del pacchetto sicurezza da parte del Parlamento c'è una proposta che viene da un membro del governo che fa discutere politicamente. La proposta è del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, che è qui con noi. Buongiorno sottosegretario. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lei tra l'altro ha la delega alla famiglia. La proposta, sì, se l'ho capita bene, è questa. Ci sono in Italia, mi pare di capire da statistiche colte anche oggi sui giornali, tra i 500 e le 600.000 colf o badanti che sono in Italia in maniera irregolare, senza permesso di soggiorno. Lei che cosa ha proposto? Allora, sui numeri ci andrei cauto perché sicuramente il fenomeno è difficile da quantificare, ma è sicuramente un fenomeno di grande rilevanza, perché basta girare il nostro paese per sapere e vedere che c'è un grande problema delle famiglie italiane, quello degli malati, degli anziani, dei bambini, dei collaboratori domestici, dei badanti. Io ho votato la nuova legge sulla sicurezza con convinzione, sono per la politica dei respingimenti. Per il futuro è stato introdotto questo reato, ma abbiamo oggi questo pregresso di un numero elevatissimo di extracomunitari che svolgono queste funzioni, che comunque sono fuori legge per la legge Bossi-Fini, nel senso che se vengono fermati, se viene controllato il documento, devono essere immediatamente espulsi e non possono tornare in Italia prima di 10 anni, già in base alla vecchia legge. E allora, finché le famiglie italiane senza questi lavoratori sarebbero disperate, non sapevo da che parte sbattere la testa, mi sembra una cosa molto semplice, che laddove c'è già un rapporto di lavoro consolidato fra una famiglia e uno di questi lavoratori, si possa trasformare questo rapporto di lavoro in un contratto di lavoro vero e proprio, formale, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno. Per la verità, stessa cosa ho sentito dire al ministro Sacconi, stessa cosa ho sentito dire in modo diverso anche dal ministro Maroni, quando ha detto la nuova legge si applica per il futuro, e anche io sono per una forma naturalmente selettiva di regolarizzazione che riguardi queste figure, che riguardi coloro che sicuramente, certamente svolgono questa funzione. Infatti ho sempre parlato di regolarizzazione, non di sanatori. Ecco, regolarizzazione, perché sai, questo è il termine che fa discutere, e molti all'interno della Lega hanno detto: ma no, questa è una sanatoria bella e buona, cioè c'è una regola, l'abbiamo messa e subito ecco che si è fatta la legge. Allora, sgombriamo il campo, la nuova regola non c'è assolutamente nulla. Giustamente il ministro Maroni, appena approvato il pacchetto sicurezza, ha detto: il reato introdotto sotto forma di ammenda vale per il futuro, non c'è retroattività, quindi non vale per tutte queste figure che però sono irregolari. E oggi, diciamolo chiaramente, basta andare nei parchi, nelle strade, nei luoghi di ritrovo di tutte le città italiane, ne trovi a centinaia e non vengono espulsi perché la polizia giustamente gente non fa i controlli. Su questo però, sottosegretario, mi scusi, c'è una discussione, prego. Perché sulla non retroattività il pacchetto sicurezza pare punisca anche il soggiorno illegale, quindi non l'ingresso. Maroni ha detto, visto che non è retroattiva, quelli che sono già qui non compiono il reato di clandestinità, ma si punisce anche il soggiorno illegale, dunque quelli che sono già qui. No, guardi, quelli che continueranno eventualmente a soggiornare per il futuro. Beh, ma qui sì. Allora c'è un altro argomento a favore di questa regolamentazione, perché oggi è assolutamente possibile ed è facilissimo distinguere quelli che sono già in Italia fra quelli che verranno in futuro. Certamente fra qualche mese o fra qualche anno sarà più difficile distinguere quelli che sono già in Italia, a cui secondo giustamente Maroni non si applica il reato, da quelli che verranno in futuro, a cui invece si applica. Quindi a maggior ragione nel momento in cui si regolarizza la posizione di quelli che sono già in Italia, facciamo una cosa assolutamente giusta dal punto di vista della sicurezza, perché un conto, il nuovo reato, applicarlo, spacciatore di droga, racket della prostituzione, rapine, furti, cioè una situazione al limite di guardia delle nostre carceri al nord Italia che scoppiano, penso solo alla droga, io ho la delega per la droga, un terzo degli spacciatori arrestati sono magrebini o albanesi, quindi c'è un problema di criminalità collegato alla clandestinità. Un conto è parlare di queste cose e un conto è immaginare di poter espellere centinaia di migliaia di colfe badanti. Poi se riuscissimo anche ad espellerle, cosa andiamo a raccontare alle famiglie italiane che vivono attraverso il lavoro di questi collaboratori? Sì, le dice, si creerebbe un problema sociale. Allora, le voglio leggere ciò che il ministro Calderoli ha detto oggi all'Alessandra Arachi sul Corriere della Sera. Scrive, mi spiace, ci sono delle regole, vanno rispettate. Chi è regolare bene, chi non lo è può tornare al suo paese, grazie. E poi, aggiunge Calderoli, io me lo ricordo bene quando abbiamo fatto le verifiche per valutare le domande d'ingresso delle badanti al nostro paese, è venuto fuori che i due terzi di queste erano prostitute, dunque nessuna possibilità, chiede Alessandra Arachi. A me dispiace per qualche badante che dovrà andare via, ma se per regolarizzarne una devo fare entrare 10 prostitute e 50 spacciatori, lascio perdere tutto. Insomma, un po' di mal di pancia l'ha creato lei nella Lega soprattutto. Sì, però ho creato mal di pancia, però guardi, le cose non stanno assolutamente così, perché i numeri, non scherziamo sui numeri, le colfe e le badanti sono un conto, le prostitute sono un altro. Se polizia e carabinieri si concentrano sulle prostitute, possono fare un ottimo lavoro. E poiché polizia e carabinieri conoscono il territorio, sanno anche oggi, lo sanno benissimo, quali sono le badanti moldave, russe, filippine, magari dell'America Latina che lavorano, perché il fenomeno è noto. Giustamente sono più preoccupati di fermare, di espellere i delinquenti che correre dietro alle colfe e le badanti. Che già adesso, qualche anno fa, c'è stato quel provvedimento un po' farraginoso per permettere di regolarizzare. Nel 2002. In teoria tutte queste signore dovrebbero tornare tutte al paese d'origine e aspettare là un nuovo provvedimento. Ma il problema, io ho la delega della famiglia, non posso non vedere milioni di famiglie che hanno bisogno adesso di questo supporto. Immagini solo che tutte queste situazioni di bisogno e disagio familiare si trasferiscono sulle strutture pubbliche invece che su un supporto familiare. Pensi solo ai costi familiari e sociali se le strutture pubbliche italiane dovessero farsi carico di milioni di anziani senza la possibilità di avere un'assistenza familiare attraverso le colfe e le badanti. No, ma questo sicuramente. Badanti. Lei, sottosegretario, ha già detto anche qui, ha votato convintamente il pacchetto sicurezza e per la politica dei respingimenti e ha dichiarato anche in un'intervista, credo oggi al giornale, sono per i respingimenti perché sarebbe un'offesa altrimenti verso chi entra facendo la trafila giusta. Però qui stiamo parlando di persone, quelle che lei vorrebbe regolarizzate, che non hanno certo fatto la trafila giusta per entrare. Allora, quasi sempre sono persone che hanno fatto la trafila giusta, sono venute in Italia con un permesso di soggiorno regolare, di turismo, di studio, che mentre in Italia si sono messe a lavorare, poi magari gli è scaduto il visto di permesso di studio e poiché non è possibile in Italia oggi dire mi regolarizzo, non è possibile. Sono irregolari al momento. Non possono regolarizzare, perché se devono aspettare i flussi. Quando arriva da me la famiglia, il figlio, il padre, per queste situazioni, dico io ho questa signora bravissima, è venuta in Italia, si è fermata da me, lavora qui, cosa devo fare? L'unica cosa cosa che posso dire oggi è faccia tornare in Russia, in Moldavia, nelle Filippine e speriamo che fra un anno, ma lui mi dice scusi, fra un anno, ma io ho bisogno adesso. Ma il problema è questo, voglio dire, sottosegretario, l'ha detto anche lei, la legge in vigore è la Bossi-Fini, è una legge del centrodestra. Allora abbiamo voltato, ma la Bossi-Fini l'abbiamo fatta assieme, scusi, era il governo, una regolarizzazione contestuale e furono circa 350.000 le colf e le badanti regolarizzate. Ma proprio oggi che si volta pagina con i respingimenti e con la nuova legge, quindi sul versante della sicurezza, l'approvazione delle nuove norme, per questo che io dissento totalmente dalla sinistra, l'approvazione positiva delle nuove norme, che ha dato un quadro di strumenti alla polizia più severo per il futuro, consente anche di regolarizzare queste situazioni. Io, nella mia cultura politica, prima vengono i bisogni della gente, le esigenze delle persone, sì, quelle vere da risolvere. Confini se gira il nord e se gira le città del nord si accorgerà anche lui quante famiglie di leghisti sono in questa situazione. Certo, sa cos'è l'alternativa? Far finta di non vedere e tenere tutte queste badanti e colf in una situazione di illegittimità, di irregolarità, senza contributi, sfruttati in nero e far finta di niente. Senta, non mi sembra una grande soluzione. Confini in chiusura, in maniera flash, devo chiudere, sottosegretario, quanto ha di percentuale la sua uscita anche di politica a dire non è il governo della Lega e quindi lo vogliamo rimarcare con questa uscita, e quanto confida che vada a buon fine la sua proposta? Per la verità io ho già visto una nota di Sacconi che sta lavorando con Maroni, ho visto Bonaiuti che dice che questo provvedimento selettivo è già allo studio del governo e verrà fatto. A me un provvedimento selettivo va assolutamente bene. Io ho parlato di colf, badanti che hanno un rapporto di lavoro da verificare, e non l'ha fatto insomma per una rivincita, una rivalsa nei confronti della Lega, a marcare un po' il territorio, a dire non è il governo della Lega, insomma. No, l'ho fatto perché chi gira l'Italia in questa settimana parla con le famiglie e si accorge di questo allarme sociale che è nato nelle famiglie, di questa preoccupazione a cui un governo serio, un Parlamento serio devono dare una risposta. Va benissimo, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, delega alla famiglia, è una proposta sicuramente che farà ancora discutere, regolarizzare o meno le numerose, tante, qualcuno dice 500.000, insomma poi sui numeri si vedrà, però tantissime sicuramente colf e badanti che sono non regolari e che rischiano dunque l'espulsione, questo per la verità già con la Bossi-Fini effettivamente. Alle 8:46 minuti vogliamo parlare di un paese, l'Afghanistan, che sembra lontano da noi, lo è un po' geograficamente, ma che in realtà è un paese che ci riguarda davvero da vicino, se è vero che, giusto per dare tre elementi, lì fu pianificato l'11 settembre, lì viene prodotto il 90% dell'oppio, l'oppio che crea il 90% dell'eroina mondiale, e lì ci sono numerosi nostri soldati militari italiani che operano quotidianamente. Lo facciamo con due ospiti perché in Afghanistan si sta muovendo qualcosa di molto imponente negli ultimi giorni, tra l'altro purtroppo militari italiani, devo dire che anche un paio di giorni fa c'è stato un altro attacco suicida contro un convoglio di Parà della Folgore, fortunatamente il convoglio ha tenuto due leggeri feriti ma niente di più serio fortunatamente, però gli attacchi sono continui. Fausto Biloslavo, io lo saluto. Fausto, buongiorno. Buongiorno. Fausto Biloslavo, un collega del giornale, sicuramente, ma a mio modesto parere, il più grande conoscitore tra i colleghi dell'Afghanistan. Cosa succede in questi giorni, soprattutto nella zona del sud dell'Helmand, da parte dei soldati americani, Fausto? Beh, succede che gli americani hanno deciso di lanciare la più grande operazione di guerriglia, dicono, dai tempi del Vietnam. Io preferisco dire la più grande operazione che ricorda le grandi operazioni dell'Armata Rossa, dell'esercito sovietico negli anni 80 quando invasero l'Afghanistan. Però la strategia è completamente diversa. 4.000 Marines sono stati trasportati nella zona più ostica dell'Afghanistan, cioè santuario dei talebani, roccaforte dei talebani e anche epicentro delle coltivazioni dell'oppio, proprio nel sud della provincia di Helmand, al confine, quasi al confine con il Pakistan. Ma sono stati sbarcati lì dagli elicotteri non solo per spazzare via i talebani, ma anche per restarci, ovvero sia per dare alle popolazioni quello di cui hanno bisogno, per esempio sistemi di irrigazioni, per esempio scuole, per esempio cliniche. dire, è la nuova strategia voluta dal presidente Obama e realizzata da quel grande generale che è David Petraeus, che ha vinto la sfida in Iraq e che probabilmente sta cercando di vincere anche quella in Afghanistan. Quindi cercare di accattivarsi la popolazione, insomma di avvicinare la popolazione, oltre che dall'altra parte sconfiggere ovviamente i feudi dei talebani. Esattamente, oltre alla forza delle armi bisogna conquistare, come dico io, la pancia degli afghani, perché soprattutto in quelle aree sono aree disgraziate e disagiate, quindi bisogna conquistarsi la pancia degli afghani, nel senso che gli Marines, come arrivano, oltre che a sparare fanno delle sciure, cioè organizzano delle assemblee locali con i capi villaggio e chiedono: bene, di cosa avete bisogno? E loro dicono: abbiamo bisogno del sistema di irrigazione perché l'acqua non arriva più, oppure della piccola clinica perché la mortalità per esempio per parto in Afghanistan è quella più alta al mondo, e così via. Se i Marines manterranno queste promesse, oltre che ovviamente l'uso della forza per garantire la sicurezza, l'operazione avrà successo. Insomma, qui si gioca molto anche delle strategie future di quel paese, che poi è molto più vicino a noi, appunto, come ho detto, di quanto sembri. Io voglio salutare anche il generale Mauro Del Vecchio. Buongiorno generale, tra l'altro oggi è senatore del Partito Democratico, ma insomma a cavallo tra il 2005 e il 2006 ha comandato anche le forze ISAF della NATO in Afghanistan. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno generale. Allora, cosa stanno facendo gli americani? È una strategia, secondo il suo parere, giusta quella di combattere, ma anche cercare questa nuova politica portata avanti dal generale Petraeus in Iraq e trasportarla in Afghanistan? Ma io direi proprio di sì. È una strategia che per quel paese credo che sia l'unica che possa portare a dei risultati positivi. L'Afghanistan è un paese molto difficile, molto complesso, diviso in etnie, soprattutto con una forte situazione di sofferenza nella popolazione. È chiaro che lo sforzo militare in questo momento è uno sforzo importante e determinante, soprattutto per recuperare il controllo di aree che prima non lo erano sotto il controllo del governo afghano, ma questa azione nei confronti della popolazione, dello sviluppo sociale ed economico di quelle aree è assolutamente essenziale. Le chiedo anche, generale, per quel che riguarda i soldati italiani, io ho come il sentore, insomma, basta vedere, purtroppo finiscono in pagine interne dei giornali, perché siamo anche un po' così noi giornalisti, finché, e fortunatamente, speriamo certo, si continui sempre così, ci sono attacchi che falliscono, ci sono dei leggeri feriti, però questi attacchi sono aumentati di recente, sono aumentati notevolmente. Questa è una verità incontrovertibile e sicuramente l'area di nostra competenza, quella nella parte occidentale, ha subito in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, un'escalation di violenza. Questo nasce anche dal fatto che le forze di sicurezza afghane, con le quali le forze naturalmente italiane in quel settore operano, hanno aumentato la loro capacità e quindi praticamente cominciano ad operare anche in aree dove prima non c'era questo controllo del governo afghano. Quindi si vanno praticamente a suscitare le reazioni sia della criminalità, perché non dobbiamo dimenticare che purtroppo in Afghanistan, a fianco all'insorgenza talebana, c'è anche una forte dose di criminalità, quella che sostiene praticamente i traffici anche della droga e così via. E quindi praticamente questo ha comportato sicuramente anche nel settore italiano un incremento delle violenze. Fausto Biloslavo, perché i soldati italiani sono più esposti in questo momento? Perché aumentano gli attacchi? Ma aumentano gli attacchi, diciamolo chiaramente, fuori dai denti, senza il solito politica di corretta. I nostri sono i nostri che stanno attaccando, sono i nostri che sono passati all'offensiva in certe zone, come per esempio la provincia di Badghis, dove non vedevano un soldato straniero fino all'altro anno, dai tempi appunto dei sovietici. Ovviamente i nostri hanno conquistato un caposaldo e quest'anno i Parade della Folgore escono a questo caposaldo assieme agli afghani, in un'operazione che si chiama in Pashtun Tempesta, che significa tempesta, un'operazione organizzata da afghani e italiani, e ovviamente escono per conquistare aree di territorio per ripulirle dai talebani, uscendo dalle basi, combattendo i talebani. È chiaro che aumentano gli incidenti, i feriti, i problemi e così via, però insomma io vorrei un po' ribaltare, soprattutto nel nord del nostro settore che controlliamo il confine con l'Iran, Taliban nel settore occidentale dell'Afghanistan, i Parà sono passati all'offensiva. Questo è un tema sul quale poi la politica si è molto spaccata, molto dibattuto. Generale Del Vecchio, io non lo so lei che posizione ha, se più da generale che è stato lì o da senatore del Partito Democratico. No, siamo lì a fare la guerra noi? Noi siamo lì ad effettuare, attenzione, questo è molto importante, questo passaggio, sì, un'opera di stabilizzazione. Non siamo andati là perché qualcuno ce l'ha imposto, ma soltanto perché le Nazioni Unite con 3 risoluzioni dell'ONU hanno dato legittimazione a questo intervento della comunità internazionale. Questo sì, ma una volta che siamo lì che facciamo? E dobbiamo naturalmente rispettare quello che è il mandato che ci è stato dato dall'ONU, ossia sostenere le forze afghane e sostenere il governo afghano nel controllo dell'area. E quindi questo naturalmente comporta anche l'impegno di operare sul terreno, di creare queste basi avanzate. Bala Murghab è quella a cui si riferiva il dottor Biloslavo, ma potrei ricordare anche della Ram a sud oppure Musai Valle vicino a Kabul. Sono aree in cui gli italiani stanno operando in settori naturalmente piuttosto delicati. Mm. Per concludere, Fausto, c'è il, io lo dico così, ormai è più una barzelletta, Osama Bin Laden. Ma dove diavolo è finito? Ci spostiamo un po' più a est, forse, no? Al confine col Pakistan. Adesso ce lo svela Biloslavo, ci svela dove è Osama Bin Laden. Magari, non sarei qui, sarei ricco con la taglia. Perché devi anche andare a prenderlo, non è che devi solo... Questo è il problema. Ma io ribalterei la domanda, anzi ne farei un'altra. Ma Osama Bin Laden è ancora vivo? È vivo o morto? Questa è la domanda. È vivo o morto? Comunque è rimasto nel mito, no? Nel mito jihadista internazionale, quindi vivo e morto rimane un pericolo, rimane un mito. Se fosse vivo e se effettivamente si nascondesse da qualche parte, io penso che è ovviamente nelle aree tribali a cavallo fra il Pakistan e l'Afghanistan. Però ripeto, la domanda cruciale è: ma è ancora vivo? Però non c'è una risposta, o meglio una risposta univoca facile. Io mi devo fermare qui ringraziando il generale Mauro Del Vecchio, che è senatore del Partito Democratico, e Fausto Biloslavo, collega, insomma scrive per il giornale, per il Foglio, per Panorama, grande conoscitore dell'Afghanistan. Ci fermiamo, in redazione Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli, in regia Carmelo Lauricella, do la linea, la palla, il microfono a Oscar Giannino con 9 in punto. Oggi c'è ospite il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta e noi ci sentiamo domattina.